Amici sportivi, quasi tutto pronto, vedete, per l'ingresso in campo, erba un po' alta, stile Real Madrid di Mourinho. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Nel primo tempo, per assurdo abbiamo fatto molto meglio nel secondo giocando in 10, perché sono venute fuori quelle qualità, cuore, determinazione, cattiveria, c'era anche una buona organizzazione perché la squadra stava anche molto bene in campo tatticamente, quindi quando si corre bene tutti insieme, hai fatto l'esempio di Osvaldo, dai una mano, aiuti tutti i reparti, allora anche essere in 10 probabilmente non è più un problema, si vincono le partite. Io credo che il positivo è che siamo qualificati con ancora una giornata per giocare, e abbiamo visto la partita difficile con una squadra che non perde mai in questo campo, e fare un pareggio senza subire, vedere due o tre parate di Rafael che ha mostrato il suo livello, vedere la squadra reagire soprattutto all'inizio e soprattutto al secondo tempo e creare la situazione per anche fare qualche gol, credo che alla fine è tutto positivo. Prima mezz'ora ha giocato con grande velocità, insomma ho visto una squadra quasi perfetta anche nell'approccio alla partita, era molto timorosa la vigilia e invece le ragazze hanno risposto alla grande, poi pian piano forse ci siamo un po' in qualche modo, si abbiamo pensato in qualche modo che la partita fosse facile, invece mi ha abbassato un po' un pizzico di attenzione, un pizzico di... non so come definirla, insomma, però abbiamo abbassato i ritmi giocando un po' con più pigrizia, ci siamo abbassati e pian piano abbiamo concesso campo all'avversario anche se non creava un granché, e poi quell'episodio ha cambiato insomma i risvolti del secondo tempo dove abbiamo sofferto tanto, ma la squadra ha concesso poco, se non su palle lunghe dove loro erano molto strutturati, siamo ripartiti poco, insomma il secondo tempo non mi è piaciuto molto anche se abbiamo l'attenuante dell'uomo in meno. Di fronte a una grande partita contro una squadra secondo me fortissima, solo il portiere che ha fatto 3 o 4 parate, che hanno, ne ha fatte molte di più, ma 3 o 4 veramente straordinarie, già fagli i complimenti. Non lo conoscevo sotto questo aspetto così, ma veramente parate di una difficoltà incredibile, quella sul colpo di testa di Martinez da un metro è stato incredibile, anche quella sulla ronda. Buon pomeriggio a tutti, oggi appuntamento imperdibile, lo aspettiamo tutto l'anno, Fiera di Milano, forum, agenti, rappresentanti, pubblico, grande qualità, sentite gli applausi, sta arrivando anche Pardo ovviamente in ritardo, ma sarà qui anche lui. Invito tutti i disfattisti, tutti i gufi, tutti quelli che facciamo schifo, perché la spernacchiatissima Italia potrebbe portare 6 squadre, cioè tutte quante oltre le d'Ercole della prima fase delle coppe. Franco Piantenino, dottore, è qui, c'è Carmelo Lauricella, regia centrale a Milano, non so chi c'è ma li saluto tutti con grande affetto, c'è Tancredi Palmieri, super corrispondente, non mi ricordo più di per quali 1000 testate, adesso ce le facciamo ricordare da lui. Ciao, tutte, grazie. Tutte, Bean Sports soprattutto, la TV americana che trasmette il calcio, e per questo, sai come sono salite le nostre azioni adesso dopo queste vittorie sul Karabakh di Dnipro e altro? Ma c'è poco da filosofeggiare, Karabakh di Dnipro sono squadre a livello europeo, le italiane in Europa. Con Oplianka lo vogliono tutti, eh? Ah? Oplianka. Lo vuole l'Inter. Gran bel giocatore, l'abbiamo visto ieri sera. Poi CNN, poi racconti il calcio. Giustamente siamo alla fiera degli agenti di commercio, quindi giustamente espongo la merce. Bravo, anch'io. Anzi, se c'è qualcuno che mi vuole, io sono disponibile. Anche per in generale. Peraltro, fai tutto, faccio di tutto. Sì, veramente eclettico, mamma mia. 800 24 0024, tutti i disfattisti invitati, è chiaro, prendiamo 7 gol dal Bayern e ci deprimiamo, poi viviamo una settimana europea come questa in cui Beh, la Roma si incazza giustamente, diciamo. Poi parla dello strip club dei giocatori giallorossi, che secondo me ha ragione Garcia, è un modo buono per fare gruppo. Avevano due ore a Mosca, che vuoi fare? Poi non esiste un giocatore che, finita una partita, vada subito a letto, tanto più se poi è finita a Mosca la partita. Sui ceci. Ok. Beh, siccome è comunque una buona idea, ha detto si fa gruppo con gli spaghetti con la bottarga di Zeman e di Conte, si può fare gruppo anche nel nostro club di Mosca. Cioè, secondo me non c'è niente di male, è inutile fare. Pensavo fare stessi del scivolando sull'aggettivo quando hai detto spaghetti con la bottarga, ma invece la preoccupa mi intendevo. Sì. Comunque la Roma è arrabbiata, giustamente, perché deve essere una giornata diversa. La Juventus, secondo me, è stata grandissima, ha confermato il suo strepitoso momento, e sono curioso di vedere il derby di Torino. L'Inter ha vinto il girone, il Napoli è passato, la Fiorentina ha vinto il girone, il Torino ce la può fare ampiamente. Mi sembra che nessuna nazione in Europa sia messa così bene come l'Italia, per paradosso e alla faccia dei gufi, dei disfattisti, di quelli che facciamo schifo. Sì, l'unica forse al momento che si può equiparare con noi è l'Inghilterra, che se non sbaglio ha già 4 sicure oltre il turno, e magari sono anche Spagna, no, Germania no, le altre no. Dobbiamo tifare altri italiani, però, dobbiamo tifare Balotelli, Matteo soprattutto. Sai perché? Prandelli non più, No, beh, lui Prandelli, no, anche perché poi ne parliamo, Prandelli quarto, ma dobbiamo tifare loro, perché in questo momento noi abbiamo, non voglio dire un calcio di rigore, vogliamo dire un calcio di punizione da 24 metri di Pirlo per vincere la Liga. Se poco arrivano lo Schalke, il Liverpool e qualcun altro, cambia le carte in tavola, perché in questo momento delle 24 che passano in Europa League solo il Tottenham, se vogliamo, ha un livello equiparabile. Però se arrivano Liverpool, Schalke e forse il City, o se dovesse perdere con la Roma, insomma, nel gioco di punti o altro, nel pareggio, quello ci potrebbe rovinare le cose, insomma. Qui dobbiamo tifare Balotelli, intanto sì, tifiamo Balotelli, tifiamo Di Matteo con lo Schalke, non splendido il loro momento, peggio ancora quello di Prandelli, poi ne parliamo. Intanto però mi sembra che la novità sia l'atteggiamento in cui le squadre italiane sono andate finalmente in Europa League, cioè un atteggiamento non di sopportazione, ma un atteggiamento attivo, e per fare questa manifestazione che per Inter e Napoli secondo me vuol dire tantissimo. 800 24 00 24, numero verde, vi aspettiamo, c'è il traffico, Pardo sta arrivando, Tancredi Palmieri qui con me, siamo a Forum Agenti, Milano, fiera, la vecchia fiera campionaria, siamo qui a trasmettere oggi in diretta. Traffico. Ma non è la trasmissione, che è di matti questa, non la sei reso conto. Tutti convocati. No, siccome lui veniva sempre nel camere, ogni prima delle partite e dopo le partite all'estero. Era un bel martello, il traffico. Un martello pneumatico. E una volta eravamo a Danzica con Boniek, che ci faceva da traduttore, e aperto la camera ce n'erano solo 6. Parliamo di Intercontinentale, quindi Juventus è sempre trapattoniana, stesso albergo, eravate finiti nello stesso albergo dell'Argentinos. Sì. E Stefano Tacconi, per cercare di allentare un pochino questa tensione, che fa a un certo punto? Alla faccia di trapattoni sono scappato con il taxi e sono andato da una geisha. Poi la geisha è una donna che ti dà particolari attenzioni, ma non è tranquilla. No, no. Ha mai saputo il trappo? Glielo stiamo dicendo adesso? No, credo che lo sappia. La goduria è quando lo devi raccontare dopo che hai fatto bene, cioè hai parato i rigori. La cosa più bella è raccontargliela, perché così ti ho fregato. E su queste parole, su questi racconti di Stefano Tacconi, un applauso chiedo al pubblico di Forum Agenti per il mio fratello di microfono. Ciao, ciao a tutti, come va? Intercettato al telefono, intanto il mio è caduto per terra, si è staccata la batteria. Signore Enrico Ruggeri, che poi di sera Ruggeri. Lunedì sera ti chitacca, oltre Ruggeri. A molti altri ospiti, altre cose che stiamo preparando. Compreso il presidente Ferrero un'altra volta. Non è che è abbonato, lo aspettiamo quando vuole. È morto il telefono. È morto il telefono. Pazzesco. Ma adesso si riaccende. No, ma ci penso io. Ma io scusami, sono un esperto di telefono. Come si sente il telefono mio? Sempre la grazia, adesso te lo risolvo io. è il telefono di Pierluigi Pardo, vi devo confessare che noi facciamo apposta, sì, vero? Cioè sì. è tutto studiato, è tutto noi facciamo apposta. Guarda, l'ho già riacceso. Grande. Adesso ci metterà 8 minuti a reinizializzarsi. Non ti preoccupare tanto. Vabbè, comunque, no, in tuo onore, Tacconi, a Danzica con 6 sì. ragazze, sì. Tacconi a Tokyo dove era con l'interpretazione. Qual è il nesso? Mi sfugge il nesso. No, stavamo parlando di una strip club. Io dicevo, secondo me, è un modo del tutto corretto di fare spogliato. Dopo, come ha detto Rudy Garcia, avessi potuto, avessi avuto la tuta, ce l'ho andato anch'io, ragazzi. Sì, no. Beh, ne abbiamo già parlato lungamente ieri. Chiaro che insomma, il risultato fa arrabbiare i tifosi e fa arrabbiare, immagino, anche i giocatori. Ma perché? Beh, perché il risultato della Roma non è il risultato. Quindi questo fa sì che ci sia la possibilità anche di ingigantire una polemica che non ci sarebbe assolutamente stata se la Roma avesse vinto. La risposta dal punto di vista ambientale arriva domenica sera. Tutto quello che possiamo dire prima è così, è precampionato. Poi domenica Roma Inter vedremo come reagirà. Interessante Roma Inter. Sai che io mi giocherei quasi la tripla. No, Tancredi Palmieri non è d'accordo. Non è possibile. Ma tu pensa, 24 ore dopo ha giocato l'Inter della Roma, ha giocato con tutti i titolari. 48 ore dopo. 48 ore, scusami. Vuol di nulla, la Roma ha giocato a Mosca, poi ci hanno avuto da fare dopo la partita, ha avuto un viaggio. Ma è un da fare che ti carica, cioè. No, sono curioso di vederla, un banco di prova importante come quello di Roma domenica. Intanto stavamo dicendo che io ho convocato al telefono 800240024 tutti i disfattisti, sì. quelli che facciamo schifo, sì. quelli sì, che sì. siamo depressi, eccetera. Li convoco anche qui, abbiamo un microfono qui a Forum Agente, lo facciamo girare, tanto per noi è un appuntamento cult, irrinunciabile. Tra l'altro tengo a far notare che siamo gli unici di Radio 24 ad aver fatto tripletta con Forum Agente. Milano, Napoli, Milano. È chiaro. Ragazzi, questa è casa nostra. Sta invocando il bonifico, direi. Abbiamo fatto passione sud. Dicevo, passione. Prima parlavo con Ricci, il boss di tutto quanto, dicevo, un pezzo anche mio di Pardo. Sì, sì, ma infatti, ma noi adesso poi andiamo a fare gli agenti, cioè finisce la puntata alle 4, ci mettiamo, che cos'è? Gli agenti vendono tutto, no? Tutto. Posso fare lo stage con voi? Tu puoi fare lo stage. Vabbè. No, e la partita è sicuramente la tripla, su questo non ci sono dubbi, credo la Roma sia favorita, perché insomma lo dice il fattore campo e lo dice la qualità che si è vista fin qui, però insomma è una di quelle partite che aprono domande. E che hanno con sé un seme di dubbio che sicuramente non è facile da sciogliere, quindi sarà importante, secondo me, dal punto di vista ambientale, al di là dell'episodio dello strip club, capire come la Roma assorbirà la doppia delusione di queste due partite che sono girate tutte all'ultimo secondo in una maniera negativa. Comunque Pier, alla fine possiamo portare 6 squadre a oltre le colonne prima dell'inverno europeo, e allora di che ci stiamo a deprimere per cose? Cioè, tra l'altro da un punto di vista puramente Inter e Fiorentina già vinto girone, sì. Napoli potrebbe farlo, il Torino che tu hai commentato ieri sera, adesso ti chiedo come hai visto il Torino al vigile del derby. Il Torino c'ha una cosa, c'ha una combinazione, Torino e Roma hanno due combinazioni matematiche che sono incredibili, cioè? Il Torino allora, la qualificazione sì. sono legate molto al risultato dell'altra partita, cioè, se l'Helsinki non vince a Bruges, è interessante il piccolo ascolto, se l'Helsinki non vince a Bruges il Torino può perdere anche 11-0 e si qualifica, sì. se l'Helsinki vince a Bruges il Torino praticamente Copenaghen, a meno che l'Helsinki non vinca con 3 gol di scarto, potrebbe lo so. Anche l'Helsinki non trovare la strada per Bruges, perché ha voglia da Helsinki o da Cioè, queste cose sono il pallino di Cruciani, no? Tutte le combinazioni algebrico-matematiche. Io sono contro le masturbazioni mentali, dico giochiamo e vediamo che succede. Ho capito, però per giocarsi questi pallini Cruciani, tra l'altro, sta rimanendo indietrissimo in Champions Suite, dove Pierluigi sta spaccando, devo dire. Sì, ecco, no, ti ringrazio ti ho servito proprio sul piatto d'argento. Stiamo facendo questo torneo così autoreferenziale fra giornalisti, cazzari di ogni tipo, eccetera. E siamo quasi. Siamo 32 di quindi siamo divisi in 8 gironi, però c'è un punteggio, diciamo che sono davanti agli altri 31, ecco, ma anche nettamente al secondo posto c'è Valentina Mezzaroma, esatto. Terzo posto Francesca Barra, saluto con grande affetto e invio anche un bacio a Valentina Mezzaroma, quindi sono su un podio con due donne, sì. In mezzo, sogno della mia vita, Cruciani rischia di non passare il tavolo che è quarto nel suo girone, ma come mai va così male? Ma la differenza fra chi sa e chi non sa, anche se la settimana scorsa devo dire che invece il campionato ha fatto 0 o 1, forse dei pronostici, uno Genoa Palermo, sì, forse l'hai preso, però ieri benissimo. Ieri ho beccato l'Inter che vinceva, il Torino che pareggiava, non mi ricordo, il Napoli che pareggiava, ho sbagliato la Fiorentina e sono contento di essermi sbagliato. Poi il Torino, intanto in un minuto dimmi dell'Inter, che esce dalla trappola Nipro, scappa di prigione, Osvaldo e Handanovic pagano la cauzione, non a caso, secondo me sono due, forse due giocatori con maggiore talento di Mancini. Sì, c'era quella vecchia regola, no, che è meglio essere fortunati che bravi, non che Mancini non sia bravo, per carità, però sicuramente la partita di ieri, per chi l'ha visto lo sa, è una partita che è girata bene su degli episodi, perché insomma se andava 2-0 il Dnipro poi era difficile riuscire a recuperarla, e io penso che stamattina il sentimento prevalente dei tifosi dell'Inter sia probabilmente con Mazzarri in panchina, per qualche motivo oscuro quella partita non la si vinceva. Io non voglio infierire, anche se poi non c'entra niente, cioè, perché Handanovic a fare il rigore non è meglio di Mancini o eventualmente è meglio di Mazzarri, a parte che di parlare poi con Mazzarri. Io non voglio infierire, sì, la reazione c'è stata nel Mazzarricidio, però effettivamente una reazione del genere con Mazzarri non, certo, si è mai vista. Non si è mai vista, e devo dire poi tra l'altro è una partita utile perché dà la qualificazione con turno d'anticipo, perché dà morale. Certo, quindi, certo. Però ecco, sul discorso delle italiane in Europa League e Champions League, la grande differenza rispetto al passato è che quest'anno l'Europa League la stiamo affrontando bene. Bravo, quello che ho detto anche io prima. Prendi, cioè, la formazione dell'Inter ieri sera. La differenza è l'atteggiamento con cui le squadre italiane hanno approcciato l'Europa League, rendendosi conto del fatto che soprattutto per l'Inter Napoli è una competizione determinante, cioè quella che potrebbe davvero dare un senso alla stagione. La differenza è la decisione di Platini nel momento in cui dice, sì, chi vince l'Europa League può qualificarsi alla Champions, sì, e infatti Mancini arriva in conferenza stampa da Appiano la primissima al sabato: possiamo entrare in Champions in una via o nell'altra. Mai prima l'avevano detto così gli allenatori, così come la Fiorentina a inizio anno si è seduta, questo non è stato reso pubblico, però penso che Pierlo sappia, si è seduta a tavolino, si sono seduti con Montella, abbiamo detto il suo posto non lo sappiamo, quest'anno puntiamo come prima cosa in Europa. Ma giusto, il Torino secondo me dovrebbe puntarci ancora di più, il Torino che ha avuto grande sfiga ieri. Torino ha le qualità, ne parliamo non è che devi vincere per forza, vai avanti, ti fai vedere un po', di soldi riprendi, fai gli incassi, ti diverti. Inter e Napoli secondo me sono da corsa per vincere l'Europa League, dovrebbero puntare anche la Fiorentina, anche la Fiorentina che ha carattere, che ha comunque una faccia molto europea, più che può fare meglio in Europa che non in Italia. Ci fermiamo per la borsa, 800 24 00 24, siamo a Forum Agenti, poi abbiamo un microfono, quindi possiamo avere interventi anche da qui, insomma tutto questo e molto altro in Tutti Convocati. Tutto il resto è noia. Fate le due risate, li vedete tutti seri. Convocati. Pallone ancora verso il centro, esatto, le tre, l'Uruguay è in vantaggio, ha segnato Godin, come al solito Godin. Visto che il progetto tecnico è di mia responsabilità, ho detto loro che avversegno le mie dimissioni. Presidente, ci siamo parlati, guardando negli occhi mi ha detto che lui vuole raggiungere la quarta stella, quindi per me già quella frase era una garanzia di serietà, di programmazione, ma di voler vincere. Io continuo con Galatasaray, dispiace tantissimo essere usciti dall'Europa, ma siamo dei lavoratori, siamo dei professionisti seri e quindi assolutamente non pensieri di abbandonare nessuno. Allora, Cesare Prandelli saluta la compagnia anche al Galatasaray. Due fallimenti in cinque mesi sono tantissima roba, dispiace per Cesarone. Qui non hanno preso Patui, Barbo, Doria, Balanta, Marcelo, Douglas, no, Campe, no. Son, come gli avevano promesso. Un punto in cinque partite e 15 gol subiti, ciao Europa, ciao Prandelli al Galatasaray, che dice vado via a un punto dalla prima, mi ha chiesto di vincere la quarta stella, non mi sento di aver fallito. L'ha certamente tradito l'Europa, in Europa il Galatasaray ha fatto delle figure drammatiche, anche l'altra sera, sì, contro l'Anderlecht, anche se ha avuto, chi ha visto la partita lo sa, ha avuto tante occasioni per fare l'1-1, ma ha preso 2-0, non è stato particolarmente fortunato. Allora Tancredi Palmieri, con Pierluigi Pardo qui con me oggi a Forum Agenti, collegato con noi un nostro amico, cui voglio fare i complimenti pubblicamente, Antonio Cabrini, CT della Nazionale Femminile di Calcio, che ieri è andata vicina ad un risultato storico, e i complimenti sono doverosi, perché la sensazione è che più di così davvero in questo caso non si potesse fare con le azzurre del calcio. Ciao Antonio. Ciao. Ciao. Complimenti. Beh, credo che oggi è giorno della delusione, no? Però una delusione ragionevole, nel senso che mi sembra che questa squadra, davvero, come dicevo prima, per il movimento del calcio femminile italiano più di così non potesse fare. È una matita, è chiaro, una matita che brucia, è una delusione, perché si era veramente a un passo per arrivare a questa qualificazione mondiale, però già per quello che avevamo fatto sicuramente la squadra, non posso lamentare di niente, perché comunque le squadre, le ragazze hanno veramente giocato, hanno dato tutto e hanno giocato col cuore. Poi quando vai a incontrare certe nazionali, sicuramente dove c'è una preparazione atletico-fisica importante, fai fatica. Noi abbiamo già fatto un grande risultato 4 giorni fa in Olanda, pareggiando 1-1, però è normale che quando ti scontri, incontri contro queste squadre sicuramente superiori, anche facile non riuscire a portare a casa un risultato che sicuramente sarebbe stato un risultato importante anche per il movimento calcistico femminile. Vecchio ha chiamato investimenti sul calcio femminile, è chiaro che dal punto di vista del calcio femminile persino una piccola potenza, non una grande potenza. Sì, Tavecchio, però posso dirti, quando l'ho intervistato nella prima puntata di Chitarra quest'anno, a un certo punto l'intervista era finita, lui mi disse: mi fai dire una cosa sulle donne, cioè mi sembra che veramente il suo affetto per queste ragazze e ovviamente la valutazione dell'importanza del ruolo di questa squadra nella crescita del movimento calcistico italiano da parte del presidente sia veramente autentica e assoluta, quindi da questo punto di vista mi sembra una fede genuina. Che farà in futuro? Adesso lo so che sono passate poche ore, insomma, però che, come ti vedi da qui a 5 anni? Da qui a 5 anni, è chiaro che un progetto così ambizioso come quello appunto che la federazione mi ha dato in mano per far crescere questo movimento e naturalmente la squadra, tutte le squadre nazionali femminili, è sicuramente un progetto di medio-lungo termine, non si risolveranno i problemi in brevissimo tempo, anche perché comunque c'è da partire alla base e addirittura, secondo il mio punto di vista, a livello scolastico, a livello di squadre di settore giovanile nelle squadre professionistiche, insomma adesso un movimento globale che si avvicina a questo mondo del calcio femminile. È chiaro che ci vuole tempo, come ci hanno messo il tempo le altre nazioni che adesso sono all'avanguardia nel calcio femminile e sicuramente molto più preparate che la nostra federazione e le nostre squadre. No, ma dico, in futuro non ti vedi sulla panchina maschile, un'esperienza di club, cioè il focus per te rimane questo? No, non è escluso, non è precluso, assolutamente. Io sono un uomo federale, quindi i cambiamenti poi ci sono anche all'interno della federazione con i vari spostamenti, quindi non mi precludo assolutamente niente. È chiaro che ho avuto questo compito in questo momento come, diciamo, capo, come responsabile di tutte le nazionali femminili e soprattutto responsabile della crescita del calcio femminile per la federazione in Italia, io ce l'ho di buon grado. Poi è chiaro che non posso essere l'unico a portare avanti questo lavoro, questo compito che sicuramente è molto, molto impegnativo. Stiamo parlando, Antonio, di un altro CT azzurro. Abbiamo sentito prima la copertina su Cesare Prandelli. A lui il 2014 ha detto una sfiga pazzesca, eh? Girata la partita, è girata male col mondiale, e anche se sai benissimo che poi quando i risultati non vengono è chiaro che l'allenatore è il primo a pagare, però le responsabilità poi sono da suddividere, da dividere con i giocatori, con la società, con l'allenatore, e direi che è capitato poi in una società che gli aveva, come dicevi tu prima, gli aveva garantito degli acquisti importanti per essere ad alto livello in campo in Champions League, invece questi elementi non sono arrivati. Ed è normale che quando hai una squadra non all'altezza di certe competizioni, poi è normale che ce ne vai di mezzo e che succede quello che succede. Grazie Antonio, buon lavoro. Ciao, ci aspettiamo presto quando viene a trovarci a tutti convocati. Lo aspettiamo quando vuole. Così quando facciamo vuole. Un pieno di pubblico femminile. Assolutamente. Gabrini è stato, no? Adesso c'è Llorente, una volta c'era Gabrini. Ma poi mi sa che lui non ha il problema di incontrarsi con le società italiane che non fanno fare gli stage alle giocatrici. Per lui mi sa che viene meglio. È un po' diverso, però leggevo, ovviamente non sono un esperto di calcio femminile, leggevo c'è questa differenza di età media rispetto alle olandesi che in qualche modo racconta la diversità del movimento calcistico femminile che c'è rispetto ai paesi nord europei, allo stesso Canada, negli Stati Uniti. Ma no, è un altro mondo dove ad esempio gli Stati Uniti sono una superpotenza, perché moltissime ragazze americane giocano, quindi serbatoio da cui attingere enorme, estremamente profondo. No, esiste anche la categoria sociale proprio delle soccer mom, cioè le mamme che accompagnano ugualmente tutte le bambini o bambine tutte a giocare. Ma non è che dice proprio tutte, conosce tutte le soccer mamme, cioè mom. Nome e cognome. Non sono una categoria di numeri di telefono, magari. Quel personaggio straordinario. Mi dicevi, Tancredi Palmieri, che c'è una notizia relativa ai tifosi d'Atalanta. Sì, che il ministro Alfano ha firmato proprio il decreto, ha proibito per i prossimi 3 mesi. Quindi a tempo, qualifica a tempo per le trasferte. A tempo per i prossimi 3 mesi la trasferta di tifosi atalantini. Ho visto velocemente, ma suppongo sia per incidenti di Atalanta-Roma, voglio dire. Assolutamente, insomma, qui siamo sempre al solito discorso, no? Fra repressione e educazione. Io sono sempre dalla parte dell'educazione, poi ci sono delle volte delle situazioni. Scusa, perché hai aperto la Gazzetta a questa pagina? Zeman e Conte firmano la pace da Bottarga. No, stavo guardando per il fattacalcio. Ah, no, non la pasta con la Bottarga. Tu guardavi pagina 14. Va bene. Beh, la parola Bottarga a quest'ora, non avendo pranzato, ma anche se avessi pranzato, probabilmente avrebbe alcune suggestioni. Allora, traffico, poi andiamo con gli ascoltatori. Alessandro da Milano, Andrea da Treviso. Perché hai detto Bottarga adesso? Era un così bel pomeriggio, adesso però fammi fino alle 4. Traffico. Voglio dire una cosa. Allora, io voglio qualche intervento dal folto pubblico qui presente a Forum Agenti. Leggi quel messaggio che è per me? SMS Pardo ieri sera in prima TV della TV partita. Prima della partita? Giacca, giponino di lana. Cravatta riga, non capisco cosa si cravatta riga, sono io, sì. Bianco rosso orizzontali, ciuffo occhio destro, sguardo a risotto barricato. Sinceramente non so pensavo se fosse qualcosa relativo a CSK di Mosca Roma, qualche avvistamento. No, guarda, ormai io non è in lingua italiana. L'uomo sposato, la mia unica libidine appunto è la Bottarga, perché mi ci hai fatto pensare. Dai, traffico o c'è Alessandro da Milano? Traffico. Volevo dirvi solo che se siete in coda tra Pero e Cormano, stavolta Raikkonen non c'entra perché è in Giappone. Convocati. Allora adesso tocca Alessandro da Milano, poi ad Andrea da Treviso e poi vediamo se abbiamo un microfono qui, se qualcuno vorrà intervenire. Poi tocca a Bottarga da Semini. Prego, passiamo alla Gazzetta. T'ha rapito, ma no, ti ha rapito. Non dovevi dire sta parola. Ma sei tu che l'hai aperta qua. Stavo vedendo se giocava Biondini, seduto, che c'è un'emergenza a centrocampo, ma hai riportato. Ti sei ridotto a Biondini, con tutto il rispetto per Biondini. Io sono campione d'Italia. A Biondini. Cioè l'Italia, siamo 12. Non è cioè, stai rivendicando i tuoi, stai mostrando. No, ma io non. Ma sei capace di rimettere. Ma io non vado mai a fare l'asta, perché Champions League la fanno a Roma e allora la fanno a Roma nell'unica settimana, la settimana della pausa campionato, quando le fidanzate ormai mogli giustamente reclamano giustamente. Per cui faccio questi assi al telefono con quest'anno Skype, abbiamo fatto una cosa eccezionale, però l'anno scorso non si sa come ho vinto il campionato. Vabbè, ma hai botta il coraggio di rimettere in gioco il tuo titolo con dei veri professionisti? Ce l'hai o non ce l'hai ancora? No, guarda, mi annoia il fantacalcio, le scommesse, come? Pure Champions, mi annoia tutto. Prego Alessandro, vai. Buongiorno. Dica. Pronto? Sandro? Mi sentite? Sì, più o meno. Eccomi qua. Hai chiamato? Dove sei? Sono un disfattista, gufo, sono milanista. Sì. Non sono d'accordo con quello che dicevi, perché il calcio della Europa League in questo momento, secondo me, soprattutto fino a dicembre... Abbassa la radio. Ormai sono diventato un esperto, perché sennò rientra, c'è l'effetto, come si chiama? Mettiamoci un nome, l'effetto Sorensen. C'è l'effetto Sorensen, un grande studioso, sì. Prego. Senti, non mi deprimere più di quello che già lo so. Ascolta, il calcio dell'Europa League fino a dicembre è veramente un passo ripeto. I gironi degli italiani erano veramente tutti molto molto semplici, cioè c'era il Grasshopper con cui io me lo ricordo perché ci giocavo a Fusio 35 anni fa, ma poi del resto non se la ricorda nessuno il Grasshopper, il Dniepr, non c'era il Grasshopper, c'era lo Young Boys, na na na, il Duran Duran. Ma ha ragione, Alessandro, ha ragione. Se affronti male puoi sempre finire fuori col Metalist Cup di turno. Nessuno credo stia dicendo che Napoli, Inter, Fiorentina e ci auguriamo anche il Torino hanno compiuto delle imprese epiche verranno ricordate nella storia del calcio, però rispetto a quello che succedeva nelle stagioni precedenti, quando spesso non ci si qualificava oppure ci si qualificava con una fatica mostruosa, cominciamo a vedere dei segnali. Scusa, spagnole, tedesche, eccetera, sono andate fuori. Esatto. Sì. Ma ci sono anche alcune di queste squadre che nei preliminari di Champions a volte mettono in grande difficoltà, tipo lo Young Boys gli ha dato quasi la paga al Tottenham 2 anni fa nei preliminari di Champions. Ti dico che secondo me, ripeto, come sempre c'è, no? Un in medio stat virtus, direbbe mio padre, forse anche lo dico. Voglio dire, è ovvio anche che bisogna avere, non bisogna esaltarsi troppo, però l'idea che questa competizione, che è quella che in questo momento le squadre italiane possono giocare con più possibilità di riuscita, purtroppo, nella speranza che a breve si possa tornare a giocare la Champions con qualche possibilità concreta di vincerla, giochiamocela bene. Direbbe ancora lo Tito, per aspera ad astra, soffriamo un pochino. Ma quanta cultura c'è? Mamma mia, a pacchi, a due chilate e tre. Forum agenti latinisti.it. Manca lo Tito che convochiamo immediatamente. Ma comunque, voglio dire, al di là di tutto, anche le due di Champions potrebbero andare avanti e possiamo portarne 6, ripeto, alle porte della primavera europea, e non sono molte, anzi nessuna potenza europea o un paese europeo che comunque ha confezionato questo tipo di risultato, quindi non mi sembra il caso oggi di stare a sindacare il valore del Dniepro, del Karabakh. Godiamoci il momento, perché poi fra l'altro la constatazione di essere in calo è già un primo passo verso la risurrezione. Cioè a me sembra che per un po' di tempo il calcio italiano ha avuto anche quell'atteggiamento un po' snob, no? di chi diceva no, ma noi l'Europa League ci fa schifo fino all'anno scorso, ne abbiamo parlato ieri. Io credo, ribadisco, che Conte non se la sia giocata al 100% l'Europa League, al di là del fatto che poi la Juve non è stata fortunata in semifinale col Benfica e non ci sono dubbi, poteva anche passare il turno, però per la qualità che poteva esprimere, secondo me poteva fare scelte diverse, e chi se ne frega dei 102 punti, mi viene da dire, non è andato, no? In campo avvelenato, cioè, quella è la coppa, aveva fatto la società che dice ti do il premio per i 102 punti e non ti fisso un premio per la vittoria dell'Europa League con la finale in casa. Cioè secondo me è stata gestita molto male la campagna europea della Juventus l'anno scorso. Andrea Treviso, buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao Andrea. Allora, volevo solo rendervi partecipe del mio malumore e della mia disperazione calcistica, perché io sono un trevigiano della provincia di Treviso, tifoso del Toro, già immaginate cosa vuol dire. E che vuol dire? Vuol dire che sono pieno di juventini dappertutto, quindi è una disperazione. Ah, per quello, da quel punto. Beh, però sa, domenica vince il derby e gli juventini se li va a cercare, no? Guarda, ci sono degli ottimi voli low cost, tu parti la domenica mattina, stai via quelle 24 ore, torni lunedì mattina diretto in ufficio e proprio passa la... Sì, eri in ufficio dove ti massacrano. Quanto meno hai passato la giornata. Ieri sera, visto che l'hai commentato... L'ho visto bene, abbiamo interrotto però, povero Andrea. Adesso sì, ti dico come ho visto il tavolo. Andrea, prego. Sì, se devo essere sincero, proprio parlando di ieri sera, sì. Io non vedo una squadra da Toro. Avrà avuto occasioni, avrà avuto, però non vedo la grinta che piace a noi tifosi del Toro. Purtroppo non la vedo. E forse ci siamo un po' illusi di avere una squadra veramente una buona nel vero senso della parola squadra, ma secondo me ci siamo un po' illusi e spero di essere smentito dei fatti e ho paura che abbiamo ben poche possibilità nel prossimo Beh, però ieri sera c'è stata la pace con i tifosi e questo è già un buon segnale, ma secondo me Torino sta facendo la stagione che deve fare, cioè non è che manca qualche punto in campionato, ma c'ha i tre rigori, rigori potevano significare 14 punti per il qualcosa Torino. in più. No, io a me ieri è piaciuta, devo dire, ha fatto, secondo me, soprattutto nel secondo tempo ha fatto una grande partita e se non ci fosse stato Superman in porta vinceva la partita, quindi questo va detto. Mentre è arrivato il signor Mister Agente, c'è un altro super in generale c'è un difetto di fondo che è aver speso male i soldi delle due grandi cessioni ad oggi, poi magari e auguro ai tifosi del Torino ovviamente fra due mesi di avere responsi diversi, ma al momento gli investimenti che sono stati fatti non hanno funzionato, quindi questa è la realtà. L'Europa League secondo me è una prospettiva molto stimolante, il derby per me insomma è chiaro che c'è una netta favorita, però si sa mai. Commenterai domenica però. Sì, c'è anche una cosa da dire in 12 secondi, la diciamo dopo. Dopo? Adesso c'è adesso il Bad corner CRM, poi ancora uno, sì. Per corner. Forse ce la fa, riesce a mangiare un panino. Sì, ma con quel sistema mi hai detto tu prima. Vado. Ma di che ti mando io? La Bottarga sia con noi. A dopo. Quote e pronostici. Stasera torna in campo la Serie B con l'anticipo tra Pescara e Lanciano. Vediamo dunque le quote SNAI per questa partita che si gioca alle ore 20:30. L'1, la vittoria del Pescara, è quotata a 2:30. L'X è a 3. Il 2 invece, con la vittoria del Lanciano, quotata 3:40. Domani scende in campo il Carpi capolista che affronta alle 15 il Frosinone. 1, la vittoria del Carpi è quotata a 2:40. L'X è a 3. Il 2 invece, con la vittoria del Frosinone, quotata 3:20. Altra gara da seguire è quella tra Livorno e Perugia. 1 con la vittoria degli Amaranto, quotata 2:25. X a 3. 2 invece con la vittoria del Grifone, quotata 3:50. Sabato torna la Serie A in campo con due anticipi. Il primo è quello delle 18 tra Sassuolo e Hellas Verona. 1 la vittoria dei neroverdi è quotata 2:10. L'X è a 3:25. Il 2 invece con la vittoria dell'Hellas, quotata 3:60. Alle 20:45 invece Chievo Lazio è il posticipo serale. L'1 la vittoria del Chievo è quotata 3:50. L'X è a 3:20. Il 2 invece è quotato 2:15. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi. Noi ci risentiamo domenica. Tutti convocati. Tutti convocati. Implica una gerarchia, un concetto di gerarchia. All'epoca dei romani c'erano appunto i senatori che avevano l'autorevolezza, quindi implica anche un'autorevolezza delle persone. Ubi maior minor cessat, quando c'è una persona che viene riconosciuta superiore, ma superiore in senso lato, cioè, la persona diciamo inferiore, intesa più debole, più meno riconosciuta, non deve parlare, perché se parla lui, siccome ha l'autorevolezza di parlare, gli altri devono stare zitti. Pure questa è una visione, diciamo così, che si impegna soprattutto sulla qualità della persona, ma ecco, qui sorge il dualismo: è giusto che una persona che è più intelligente, più bella, più brava, eccetera, comunque non consenta a una persona che viceversa non è bella, non è intelligente, comunque di poter esprimere un suo giudizio? Allora, questa è una delle più grandi idee televisive del mio amico Pierluigi Pardo, le lezioni di latino. Pensa alle altre. Di Lotito. Pensa se questa è quella questa, di no. Questa è questa meravigliosa. Magari siamo. Adesso la facciamo qualcosa. Bisogna ragionare. Verrà bella questa cosa. Bella, divertente. Meravigliosa. Siamo. A poi era Chip, capito, con la lavagnetta. Io scrivo la frase. Sì, altra categoria. Altro col livello. Telefonino, certo. Tancredi Palmieri qui con noi a Forum Agenti. Il grande Tancredi Palmieri. Microfoni aperti per Toto del Mondo 800 24. L'inappuntabile da credibile. Anche per quelli che sono qui. A proposito, questo tweet, voglio fare un annuncio. Sì, voglio diga. Fare un annuncio. Al forum, mi scrive Matteo, al forum agenti, tra gli espositori c'è anche un ex giocatore, tale Leandro Raimondi, convocato qui subito. Un Dario Hubner delle minors trovato. Attenzione a Raimondi, prova a ripartire Raimondi, tocco profondo, Raimondi, piantanina, chiude il triangolo, ancora Raimondi! Destro sul fondo, peccato! Bravo comunque Raimondi, bravo, è stato bravo. Perché sul fondo? Lui ha questi ho capito, il gol è banale. C'è un Hubner delle minors, Hubner. Ma devo fare 1-0 forum agente, è diventato complicato. Senti, a proposito di derby, prima ne parlavamo. Pronostico del signor Cruciani, no? No, del signor Tacconi, che tra una geisha e, sì, e un 2 contro 6 ad Anzica. Volevo vedere come uscivi anche, così ha parlato che... anche di, ti è piaciuta? Sono uscito sì, bene? Sì, no, due buon dribbling, no? È già partito, 6 contro 2 ad Anzica. Già sta come comincia questo contributo. Come finisce? Tacconi. Come finisce il derby domenica, Stefano? Beh, io ho paura che prendano tante pere, nel senso di, visto che il Toro sta andando non benissimo. Che tu fai caso che le due squadre che l'anno scorso sono andate, chi in UEFA prima, che poi è stato detronizzato, è andato al Torino. Oggi sono le due squadre che sono in crisi. Sì, gli stessi giocatori. Torino e Parma. E allora c'è qualcosa che non quadra. Non puoi in un anno che sei al vertice di un. Vuol dire che il campionato italiano soffre anche molto di psicologia, no? Nel calcio non c'è mai scontato, però insomma, viste le due squadre, le due formazioni, poveri loro, dovrebbe essere una catastrofe. Bene, questo questa musica, no? Vabbè, Fabio Cavallo, no. Schedina, lo dice un romano, è il momento, lo anticipiamo adesso che è inutile arrivare alla fine con ansia. La schedina di Pierluigi Pardo e oggi guest star Tancredi. Vai. Sassuolo Verona domani ore 18:01. Under. Io dico gol entrambi a 6. Sì, vabbè, non fate difficile, chi vince? X. Under goal, poi è un banale pareggio. Io dico uno. Sapete anche perché? Chievo-Lazio domani 20:40. Certo. Ma vogliamo sottolineare lo straordinario momento del Sassuolo, la forza di questa società. E siamo a metà classifica. Ne vogliamo parlare. Siamo a 6 risultati utili consecutivi. A una lunghezza dalla Fiorentina. E siamo pronti. Dopo aver scippato Bersalico al Milan in estate. Ah, questa è una società che fino a qualche anno fa c'aveva fra i pari Nosotti, come dicevamo l'altro giorno con Leo Turrini. Adesso siamo quasi in zona. Bersalico, giocatore, comunque per la cronaca. Bersalico lo vendiamo a 15 milioni, 18. Di più, secondo me di più. Chievo-Lazio domani sera 20:45. Chievo-Lazio 0-1. 0-1. 0-1, cioè, segna, Lazio... ti dico anche chi segna, le formazioni. Giorgevic. Segna Kandreva. Segna Kandreva. Questo è capello. 64esimo Kandreva. Andiamo a domenica. Vai. Cagliari-Fiorentina. Cagliari-Fiorentina over. Io dico 2-2. Cagliari-Fiorentina, ma guarda 2-2. No, io ti dico 1x, doppia chance. Va bene, ok, dai, no, vado fai con la fare, X. Fai triple chance, no, direttamente. È 1x2 allora, 1x2. Fatto X. Cesena-Genoa. Cesena-Genoa, i Cesena gioca, come dice Sacchi, come un orchestre. Come un orchestre e puoi vincere. E si gioca come i solisti, perché il calcio è un'orchestra. No, Cesena-Genoa, salutiamo Arrigo, per l'altro magari ci sta ascoltando. Cesena-Genoa 0-1. 0-1. Io dico, cioè, dunque, come il Cesena in casa, mentre ci sono dei problemi. Tu io faccio la radiocronaca di Tancredi, per me che era le prese con due cuffie. Sono le persone che mi fanno cenno di sì con la testa. Sì. Non so se stanno, che l'ultima volta ho fatto uno. Fatto uno su 10 settimana scorsa. Quindi... Siccome il Cesena in casa è forte, c'è una bel supporto dei tifosi, io dico X. C'è il mare, la montagna, c'è tutta la Romagna. La Romagna. Vai. Empoli-Atalanta. Adesso il coro dei tifosi dell'Empoli è un po' più difficile. Empoli-Atalanta. L'Empoli sta bene, ragazzi. Io do fiducia ancora all'Empoli. Io penso che Sarri, dopo la paginata del foglio. Poi l'Empoli, ti ho detto, l'ho salvato la PlayStation. Quindi sì. Adesso sono diventato commissario tecnico della Francia. ci ho pensato molto. Più Domenech o più Blanc? No, perché ho preso anche il Monaco. quindi fai il doppio ruolo. Quindi sì, Danieri. Ma proposito, direttamente dall'Empoli, eh? No, per la carriera che sei impegnato, con tutto rispetto, sei impegnata. Difficile lanciare un'argomentazione seria in questo momento. Sì. Però si è parlato del doppio ruolo per i CT della nazionale, cioè dai CT part-time, e io sono sempre stato favorevole a questo. Sì, io non in ogni sport. Sì, ma in Italia sarebbe impossibile. Perché? Tu pensa se Conte è allenatore della Juventus e CT della nazionale, fa giocare un po' di più, ma fa giocare un po' di più quello del Milan o quello della Roma, che poi con cui si sta giocando lo scudetto, gli fa fare mezz'ora in più, dice: ah no, l'hai utilizzato di più per stancarceli. Non si finisce ma perché più. Perché siamo dei infatti nel caso allenatore all'estero, cioè tipo Ancelotti. Sì, perfetto. Anche perché mi pare che ma cosa c'è di male? Non lo accetterebbe. Non viste le offerte da 300.000 euro a settimana del Manchester United, insomma, se Ancelotti. Ma non l'accetterebbe. Glenn Hoddle, che è stato l'ultimo grande allenatore in part-time nel club e altro, però dopo mezza stagione al Tottenham lasciò il Tottenham e prese solo l'Inghilterra. Sì, ma non ed ha era senso, il Tottenham. No, non ha senso. Cioè, il CT della nazionale adesso Conte sta fermo 4 mesi, perché deve star fermo? Potrebbe benissimo lavorare. Tanto c'è un'organizzazione, una rete tale per cui, l'abbiamo visto anche in altri sport. Dal punto di vista pratico, tecnico potrebbe funzionare, sono d'accordissimo con te. Dal punto di vista dell'opportunità, soprattutto allenando una squadra italiana di alta fascia, un conto tu è... stai pensando a Ettore Messina e Charlie Recalcati. You are so cunning, really, your plan is la radio italiana, vabbè, qua fra l'altro radio Confindustria, alle 24, siamo... in grande crescita, hai letto gli ultimi dati? No. Una roba clamorosa, andiamo avanti, vai col prossimo. Siamo incartati con Empoli Atalanta, su Empoli Atalanta. Uno. Più di questo Over, perché secondo me è bella aperta la partita. Allora, la partita di cartello di domenica pomeriggio alle 15 sarà Milan. La Ligios mi guarda. Perché non ha ancora letto gli ultimi anni. Clamoroso. Milan Udinese. Il ritorno di Stramaccioni a San Siro. Milan Udinese, posso giocare, tanto sbaglio sempre. Vince l'Udinese. Ma dai, ma perché? Perché? Io, perché devi ce lo dire? Io ti dico, se devo consigliare una scommessa, di Natale a segno. Cioè, se volete fare i fighi a tutti i costi. No, tanto voglio dire. E settimana scorsa ho fatto i pronostici normali e ho fatto uno, quindi a sto punto. Sì, Milan, fammi vedere proprio. Sì. Vabbè, io dico di Natale a segno e te l'accompagno in più con parole di poco fa di Conte, che ha detto: se in questo momento ci fosse una competizione 1-3. Ufficiale, mi porterei di Natale in nazionale. 1-3, tu quindi? No, voglio fare il fenomeno. Chiaro che è più probabile una vittoria del Milan, però. 1-1, dai. 1-1, Luca da Pescara, chi vince? Non ho capito l'argomento, mi dispiace. Milan-Udinese pronostico? Non lo so, il Milan mi sembra veramente messo male con le idee di Inzaghi, quindi dai X. X, Ivan da provincia di Ravenna, poi stia lì Luca, poi parliamo. Sì, Ivan dalla provincia di Ravenna, chi vince Milan-Udinese? L'Udinese 2-1. È un plebiscito, cioè, è troviamo, c'è uno che pensa che il Milan vincerà. Io penso che io adesso ho voluto fare il fenomeno sulla mano, chi credo pensa sia che abbastanza Milan probabile. Attenzione, la nostra amica Osser si chiama Giulia. Il microfono Giulia, una via di mezzo, non così forte. La cosa più bella che è stata di dove detto sei Giulia di dove sei Giulia? Tra i campi abito. Giulia, gli occhiali sul naso ti sfioran la mente. Vabbè, se non conosciamo Venditti, il primo Venditti, ma io sono troppo giovane. Se no Giulia si sposa, ma che sorpresa. Giulia si sposa, ma che sorpresa. Giulia, gli occhiali sul naso, respira la mente, parla di uomo e donne come sono la Isa, la camera è bassa, la mano piano piano che scende. Va bene, andiamo avanti. Palermo-Parma. Segnarigoni. Palermo-Parma, io dico che vince il Palermo. Anch'io. Ed ecco la partita che il professor Pardo commenterà. Juve Toro vince la Juve. Vince la Juve. Tanto a poco, 2-0 secondo me. 2-0 non è un po'. Secondo me vince il Torino. Vabbè, no, vabbè, non vediamo. Lunedì ti ricordo, è sempre un derby, 19 anni senza vincere, 12 anni senza segnare il Torino. Ah, ecco la cosa che volevo dire, vagamente seria sul derby prima, che c'è una differenza vera fra Juve Toro e Toro Juve, che è lo stadio, nel senso che Juve Torino, adesso domenica lo commenteremo, è uno stadio praticamente dove il derby non si fa, nel senso che c'è un settore ospiti che è quello delle normali partite, oltretutto abbastanza piccolo, e c'è uno stadio di abbonati. Questo è, per carità, perfettamente legittimo, ma è un vantaggio per la Juve. Da questo punto di vista. 2000 biglietti, credo che siano 2000. Sì, 2000 biglietti al Torino, fino ad ora ne hanno venduti soltanto 1000 per i prezzi. però. Ma adesso, al di là del fatto che veramente era riempito, però in, voglio dire, l'effetto che tu hai in certo, qualsiasi altro derby, curva, per esempio, che avevi domenica non scorsa, c'è la curva, non c'è ospite. No, sai che però è strano, l'anno scorso il Torino giocò meglio allo Juventus Stadium che all'Olimpico. Ma poi, infatti, ma poi alcune variabili del derby secondo me rimangono, perché è una partita sentita da tutte e due le parti, e quindi è ovvio che la difficoltà magari può essere superiore rispetto a una squadra omologa che non fosse di Torino per la Juve, anche se la squadra degli ultimi vent'anni dice ma di no. Poi ha giocato col Brugge adesso in Europa League il Torino, cioè come fa a recuperare? Perché recuperare? Qual è il problema? Giovedì a domenica, forse da mercoledì, però ha giocato ieri sera con 8 cambi rispetto alla formazione di Torino-Sassuolo, quindi io penso che domani rientra Gillè in difesa, il portiere almeno Maximovic, meriterebbe un approfondimento, perché che faremo in futuro? No, ma voglio dire, giochi giovedì, di tutti convocati. Giochi la domenica, che problema c'è? Vai, no, dipende dal tipo di rosa che hai. Ma vai nello sport americano, col tipo di rosa che hai, giochi stasera a Philadelphia e domani sera a Los Angeles. Ma dipende dal tipo di rosa che hai, però. Ma anche lì c'hanno una rosa, hanno 12 giocatori, se si tratta di pallacanestro, e sono sempre quelli. Ne hai. Hai una squadra di football, hai una squadra di baseball. Prendono la valigia e vanno da Filadelfia a Los Angeles. La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. Qualcosa sappiamo. Io sono anziano. Qualcosa sappiamo almeno. Roma. Giulia, la sapevi questa qui? La valigia, no, neanche questa sapevi. Giulia, una canzone. Scegli una, prendi il microfono. E scegli una canzone che ti piace. Tutti Sarabanda. Una di cui sai il testo, almeno una strofa. La valigia sul letto. Va bene. Samp Napoli 0-1, no, secondo me. Roma-Inter vince la Roma, Samp Napoli vince il Napoli. Roma-Inter vince la Roma, Samp Napoli X. L'Inter vince all'Olimpico. Never. Perdono sia la Juventus che l'Inter. Never ever. Allora, Luca da Pescara, prego, dica qual è la canzone che hai scelto da dedicare alla nostra Giulia? Vi faccio veramente i complimenti, sembra una trasmissione del debbio in questo momento con tutti questi collegamenti, mi piace molto. No, volevo dire del una debbio, cosa. Del debbio tra l'altro di Lucca, tipo della Lucchese. No, io volevo dire soltanto che mi sembra molto comodo, scusatemi, dire che quando le italiane vincono hanno smesso di snobbare l'Europa League, quando perdono invece snobbano l'Europa League. Questa è una, no, sembra una incoerenza, un'idiozia, no? Credo, no? Sì, sì. Però se vai, Luca, scusami, però se vai in Europa League e giochi con con tutti i panchinari, magari perdi. Ma è già successo, perché Benitez non ha fatto 8 cambi quando ha giocato e vinto 3-0 con lo Young Boys. In realtà è lo stesso identico modo di affrontare l'Europa League che c'è stato negli anni precedenti, ma anche la Fiorentina. La Fiorentina l'anno scorso non ha mai schierato Pepito Rossi o credo poco, comunque pochissimo nell'Europa League, e ha fatto un eccellente girone di Europa League. Sono stupidaggini. Ti leggo. Aspetta. Dimmi. Finisci, poi ti faccio rispondere da Tancredi Meneppia. Volevo dire soltanto un'altra cosa, infatti, che questa cosa dello snobismo dell'Europa League, in realtà purtroppo non l'ha inventata né Genta, né Pardo, né qualche altro giornalista. In realtà inventò Galliani, ce lo ricordiamo di Galliani che tra l'altro la riferiva alla vecchia Coppa UEFA, adesso viene estesa all'Europa League, tanto è tutto uguale poi, no? Parlando della vecchia Coppa UEFA, lui sosteneva appunto che noi snobbassimo la vecchia Coppa UEFA e che avremmo perso una squadra in Champions per questo motivo, no? Ve lo ricordate questo motivo? Sì. Però il piccolo problema è che le tedesche, perché le tedesche erano un calcio inferiore al nostro, era quella la tesi di Galliani, ed era per quello che noi dicevamo le portoghesi, di ne portate, le portoghesi ne hanno portate 3 in semifinale 2 stagioni fa. Guarda, ma secondo me bisogna essere pratici, la discriminante è solo una: nel momento in cui Platini ha deciso, l'UEFA ha deciso di assegnare il posto Champions a chi vince l'Europa League, basta, il dado è tratto. Tu vedi che ci sono le squadre che l'affrontano con come se sia con tutto, che è una strada strettissima, esatto. Perché vincere l'Europa League, ma è un'altra strada, però, che Fiorentina e Inter, certo, per esempio, certo, ti dà una, certo, quello è la discriminante di tutto. Per cui possiamo fare molta filosofia sul calcio tedesco migliore o peggiore, che è vero che prima entravano comunque le riserve, ma è anche l'atteggiamento, perché se i titolari, certo, vanno in campo, ma certo, sanno, certo, che è, certo, la società, certo, stessa che ci dice comunque. Io volevo leggervi la formazione, con tutto rispetto per quelli che citerò, di Dnipro Napoli, che era il Napoli quello di Mazzarri, che giocava l'Europa League 2 anni fa. Rosati in porta, Gamberini, Fernandez, Aronica, Parterutto, Mesto, Donadel, Mesto che stava male, tra l'altro, Donadel, Gemai, Dossena, Zuniga, Insigne, Vargas. In panchina c'erano Cavani, Pandev, Cannavaro, De Santis, questo era questo Inler, questo era il Napoli, no? No, questo era il Napoli, ma adesso non è per accanirsi su Mazzarri, non lo faceva solo Mazzarri, però voglio dire, era un approccio fra l'altro che poi funzionò, perché Mazzarri e Napoli fece cose buone, però questa era l'idea della squadra A e della squadra B, certo, dell'Europa League. Oggi non è così, Il segnale arrivava sempre dalla società, e secondo me la società che diceva ok, non è una cosa che non ci interessa, dunque l'allenatore fa quello che la società gli dice, i giocatori fiutano l'aria e giocano di conseguenza, no? Poi sai, comunque è valso 800.000 euro netti la partita di ieri, ma per guarda, l'Inter, ma guarda, passaggio del turno, ma vittoria. Allora ma tu metti l'Inter che vince l'Europa League al di là del fatto che va in Champions League, ha comunque risolto la stagione, alzi un trofeo, certo, europeo in una stagione come questa, l'Inter o il Napoli che alzano questo trofeo europeo, al di là del fatto che è un trofeo che comunque allargandolo sarebbe per il calcio italiano depresso finché si vuole, però risolverebbe la loro stagione in maniera Ma poi non devi passare nemmeno ai preliminari, che non sono una proforma. Assolutamente, non c'è discussione. Bisogna smettere di pensare alla Champions, cioè non smettere di pensarci. Cioè, la Champions è meravigliosa, è un'altra cosa. La Champions è il calcio di Serie A, l'Europa League è il calcio di Serie B. Però voglio dire, visto che è quello che devi giocare, cerca la vecchia coppetta UEFA di onorarla, insomma. Poi forse ha ragione Bogarelli quando dice che per i soldi che spendiamo noi in Italia per i diritti televisivi avremmo diritto dal punto di vista del marketing a avere 6 squadre in Champions e un nuovo format, ma no? Quella non cambia, questa mai è una visione di Platini, molto ecumenica, per avere, lo sappiamo, più voti. Lui ha cambiato i parametri negli ultimi anni, aprendo la Champions League a il famoso turno preliminare, quello con 10 squadre dei paesi alternativi. Adesso non è più tra tutte, ma esatto, c'è il girone dei campioni, esatto, e il girone per delle cui seconde. Il Napoli becca il Bilbao e il Malmo magari elimina, se non mi ricordo chi, Copenaghen, quello che squadre scarse. Va bene, allora Ivan dalla provincia di Ravenna ci aspetti, adesso abbiamo la borsa, poi torniamo, e detto questo i tifosi dell'Inter ancora si ricordano con le lacrime agli occhi la Coppa UEFA. Dicono che sono straeccitato. Schalke? La Coppa UEFA vinta da Ronaldo contro la Lazio, eccetera eccetera, è nell'album dei ricordi, certo, nella storia del mondo. Ma io quella Coppa UEFA lì valeva più dell'Europa League. Ti dico, era quella più simile alla Champions League di adesso. Con tutto che la Coppa è la stessa, quella Coppa UEFA è ovvio che valeva di più, perché non c'era la Champions. La Champions ha cannibalizzato, quindi è ovvio che la Champions è il massimo della figata possibile, però se non la giochi gioca bene l'altra, cioè non è che se tu non ti impegni in Europa League poi giochi la Champions, non è che ti dicono, ti vedo come i bambini, no? Sei un po' moggio, no, non mangi la cena, vabbè dai, ti porto allo stadio, no, non è così, se giochi male esci dall'Europa League e scendi nel ranking. Da lì Jos mi sembra veramente entusiasta di questi discorsi. Beh dai, abbiamo la borsa lì Jos, la prossima sul Cagliari, no, non vuol farla. Ma Sau ti convince? Non la convince, no, Sau. No. La borsa, prego, borsa. Che numero? Tutti convocati. Ok, mi sentite? No, ho perso il filo del discorso. Che stavamo parlando? Ma è una vita che abbiamo perso il filo del discorso io e te. Io stavo parlando con l'Alicios delle prospettive. No, le ho fatto vedere i risultati eccezionali di quelli che ci ho riferito. Ma una roba clamorosa, vabbè. Ma di cosa? Va bene. Ci sono gli amici di... Dunque, ci sono qui a Forum Agenti. Io, sì. Pardo, Tancredi Palmieri, oggi guest star per l'occasione. Ma c'è anche... ci sono anche due... Davide? E Giampaolo. Davide Giampaolo. Che fanno? Loro sono grandissimi. Sono grandissimi. Sì. Spiegatemi perché. Ecco, io non so niente. Quanto avete dato a Tancredi per dire questa cosa? Ma noi ci chiamiamo Zootropio come gruppo e facciamo video su YouTube. Il primo video che abbiamo fatto si chiamava Gli stereotipi del calcetto. E appunto rappresentava tutti gli stereotipi del calcetto tra amici, per cui c'era quello pezzato come se avesse fatto il bagno, quello che non la passa mai e l'altro che si lamenta, il veneziano, quindi chi è il veneziano? L'allenatore in campo veneziano è quello che gioca, veneziano è quello che non la dà, scusate, ero l'unico che non sapeva il veneziano, dire. Poi c'è l'allenatore in campo che ti guida, ti dice le cose, quello so io, come se fosse il Mancini della situazione, poi prende gol e dà la colpa a tutti gli altri tranne che a lui. c'era Van Gaal, una serie di Van Gaal. Esattamente. Poi? Van Gaal. Poi? E poi c'era quello tutto con il suo outfit perfetto, quindi con le calze originali, tutta la divisa perfetta, che poi è uno scarpone. Certo. Lo scarpone che è lo specialista delle punizioni, che si prende tutto, si pensa di essere Pirlo, adesso farà, e poi la tira contro la barella, tira fuori. Fa. Poi c'era l'esaltato che faceva Giampaolo, che è diventato personaggio straordinario, fa gol da un metro dalla riga ma esulta come se fosse Ibra, come dovresti se fargli Cavani. Ripetere l'esultanza come l'ha se fatto, se vuole farcela un attimo, non so magari. Se può usare il beep Francuzzo Piantanita in regia quando... Zlatan, no, ma poi quando fai muto e poi non lo vuoi come? Ripetere, no, adesso mi avete spiegato che fa sentire le orecchie, no, fai le orecchie, fa sentire il pubblico, Antonio Lenzani sotto, straordinario. Va bene, siete qui oggi oltre che perché siete amici della Ligio, e quindi diciamo che per voi c'è stata una corsia parlando, sì, di, essenzialmente, no? Di, ecco, ci sono stati segnalati in cambio di chissà cosa, di un paio di magliette di tutti i convocati, quelle eccetera, in sono più che ci danno, sì, ce danno. E siete qui per raccontarci anche la vostra storia, una storia di disagio giovanile, ma anche poi di no, scherzo evidente, scherzo. Come possiamo andare oltre questo? Io non visto. Solo, poi hanno fatto. Beh, anche mi vengo in un vostro... Io sono agente, sì, e me l'hai agente.it. Hanno fatto anche gli stereotipi del fantacalcio che sono stati passati un po', essendo degli appassionati di calcio, ovviamente abbiamo passato un po' tutti il calcio, poi siamo passati allo spogliatoio, il fantacalcio per settembre, lo spogliarello, le scommesse no, non ancora particolarmente apprezzato tra gli stereotipi del fantacalcio è quello che dice la ragazza: no amore, non ti preoccupare, quest'anno non lo faccio più, mi dedico solo a te. E poi di nascosto via telefonino, sai qualcosa tu Pierluigi, no? Di nascosto via telefono, poi fast da lontano, mia moglie è liberale. E l'ultimo poi invece è quello degli automobilisti, che abbiamo realizzato in collaborazione con Sole 24 Ore e Ford, e anche qui abbiamo preso un po' i luoghi comuni di quelli che sono gli automobilisti, non solo italiani ma in generale. C'è certo, il Pignolo sulla Pero Cormano, è un cult assoluto. Sentiamo, il Pignolo com'è? C'è il Pignolo, che è quello che non vuole che gli si sporchi la macchina, che non vuole che si mangi in macchina, non si tocchi niente perché la macchina è pulita. E poi arriva il pasticcione, che in un secondo sporca tutto. E quello sono io, esatto. Poi c'è l'autista, che è quello che ci prova con una ragazza, spera tipo di poterti accompagnare a casa. E quello sono io. Di accompagnare a casa. E invece poi alla fine finisce che accompagna non solo lei ma anche tutti i suoi amici, cioè deve fare tutto il giro di Milano. L'autista è un ruolo, è un grande classico dell'autismo, certo. Quello dell'autista è sempre esistito, sempre, no? Cioè quello, ma che è classico dell'autismo, hai detto? Sì, che le porta in giro tutte e basta. Dell'autismo, mi pare capire allora. Dove possiamo vedere questi vostri video? Beh, tutti i video sono presenti sul canale Zootropio. Se volessimo rimanere amici, se volessimo, non so, costruire una bella amicizia, ma sì, un fantacalcio, confidare i nostri problemi reciproci, che dobbiamo fare? I 14 stereotipi dei DJ radiofonici. Esatto. E ci trovate oltre su YouTube, anche su Facebook, su Twitter. L'abbiamo superato da pochi 20.000 follower. Allora siamo al top. Abbattiamoci le mani. Zootropio. Ispirato dalla casa di produzione di Francis Ford Coppola, no? Zootropio. Esattamente. Con cui fu prodotto Apocalypse Now. O anche da Zuropa, l'album degli U2. Che però è venuto a Zootropio per Francis Ford Coppola, Ubi Mario, a questo punto bisognerebbe fare anche lo stereotipo del dopo calcetto, che è qualcosa di più divertente. Ma abbiamo qualcosa da sentire, Piantanita, oppure rimane così una bella conversazione? Abbiamo qualcosa di Zootropio? No, ma allora, si parte tra poco, inizia la sfida, ma è solo un gioco. Folle cancelli e spazi. Ciao, tutto bello. Vado via. Ciao. Miti. Sono le 15. Come piace? A me questa poesia piace. E il gruppo mi sembra tipo la nebbia agli irticolli più vicinando sale. Sai che questa a proposito, sentito... vediamo un attimo come se la cava Giulia adesso con le poesie, perché sulle canzoni la cosa è drammatica. Ehi fu. Allora, i cipressi, che a Bolgheri, Alti e Schietti, Vanda Sanguino in duplice. Ha detto Filar, bravissima, ha detto Filar. E fu siccome... vedi che la sapeva, Immobile. Perché, e anche sul calcio. Perché vedi? Del Torino. A te Torino. Immobile. Va bene. Marco, provincia di Pisa, buongiorno. Buongiorno. Dica. Grazie per l'occasione. Grazie a voi. Grazie a voi. Io ho scoperto il signor Turrini, che è favoloso, simpaticissimo. Meraviglioso. Chiamiamo Turrini 5 minuti, dai, chiamiamo pure oggi Turrini, ormai ho bisogno della mia, dose di Turrini. Anche perché, guarda, io l'ultima volta che l'ho visto Turrini, eravamo nella pancia dello stadio di Natal, anzi no, la seconda, quella che l'abbiamo girato al Costa Rica, non mi ricordo dove era. Recife, già, ce l'ho pure, figurati. E c'era, ti ricordi, Abbassa il microfono, Yale Beraimi, la formidabile giornalista costaricana che tutto il mondo intervistava, stavamo intervistando e lui si è messo in mezzo nell'intervista tra telecamera e giornalista. Che schifo, a me questi che utilizzano il corpo femminile, l'avvenenza. Devo chiamare? Sì, ma intanto c'è il nostro amico. Marco, prego, dica. Marco, vai avanti. Niente, dicevo, Turrini è grandissimo. Siete simpatici, ma lui è primo della lista. Di più, sì, nettamente. Sta dicendo che non sappiamo niente. Grazie Marco, no, grazie squisito. Adesso passiamo Marco da Torino. Per sentire Marco. Ma lo so, lo so. Marco. Sì, niente, volevo dire della Fiorentina. Sono un tifoso della Fiorentina. Ieri, vabbè, si è vinto un po' sofferenza. Comunque sono d'accordo con voi. La Fiorentina forse è più un volto europeo, perché è una squadra che anche gli ultimi, tutte le volte anche in Champions, riesce sempre a fare qualcosina in più. Niente, cosa ne pensavate voi? A me dà quasi l'impressione a Fiorentina di aver esaurito il suo ciclo italiano, cioè di essere arrivata alla fine di questo progetto, almeno dal punto di vista del fronte interno. Sì, no? È una squadra senza. Cioè, una squadra. Tu togli Tevez, perché mi si sente questo audio che sembra Piazza San Pietro durante l'Angelo? Perché è Piazza San Pietro? Faccio una benedizione. Perché c'era l'eco. No, e tu togli Tevez e Pirlo alla Juve, Tevez e Buffon alla Juve, togli, non lo so, Totti e De Rossi alla Roma. Cioè, la Fiorentina è una squadra che gioca da due anni praticamente con senza i due crack offensivi per motivi diversi ormai, perché e io credo ci sia anche una fase di stanca, di entusiasmo da parte di Montella. Esatto, ho la stessa sensazione. A maggio giugno dell'anno scorso si stava trasferendo a Milano, prima da un lato, dove poi dall'altro Montella. Non credo che sia rimasto contento quando ha visto Mancini firmare per l'Inter. Io dico proprio questo. Panchina nel Napoli, no? Ora vediamo, però. Ma se il fine anno va via, no? Chi? Sì, lo paghiamo noi, tutti gli stipendi che l'Inter paga agli allenatori dell'Inter. Però Montella, che io sappia, Montella era il preferito di Tuir, non adesso, a giugno perché scorso. Ma sa Tuir, mica lo conosce, non sa neanche chi è Montella. Dai, Tuir, come diceva Mazzari, Tuir. Non sa neanche Marco chi è. Da Torino, il signor Marco. Il signor Marco, il signor Pardo, buongiorno. Che zona di Torino, rispetto alla Gran Madre? Proprio vicino. Vicino? Proprio vicino. Quindi, naturalmente Torino è sera, naturalmente Juventino, perché sì. Noi per il verbo diciamo che Torino è calata come cicciolina e vergine, tanto per capire. Tanto per una metafora alta, elegante, un po'. Secondo l'iconografia classica, sì, certo. Il torinese è granata. No. Lo spirito toro è dagli anni 70 che non esiste più, quindi non so che cosa vanno a invocare come dagli anni 70, gli anni 70 c'era una squadra che vinceva lo scudetto con Pulice Graziani. C'è un'altra canzone di Venditti per Giulia, Torino, ma chi l'ha detto che non sei bella? Vai avanti. La lasci stare, per favore. Torino vuol dire Napoli che va in montagna. La lasci stare. Pensavo in Camporena. Ragazzi, ma queste sono le basi. Aspetta. Ma qui il classico non ha fatto più nessuno. Vai avanti, Marco. Aspetta. Marco, stia lì. Traffico, perché se tu non rispetti mai, non vedi gli orari. 15:45. C'è il traffico. Un po' di traffico nell'anima. Non ho capito. Che ora è? Sì. Che ora è, credo? Non ho capito cos'è. Dove mi porti? Chi prende l'Inter? Poi lì soprattutto perché traffico. Mica male, eh? Thank you. Tutti convocati. Abbiamo ancora 6 minuti qui a Forum Agenti, io proporrei tempi supplementari. Siamo qua tutto pomeriggio. Tranquillamente. Se ci portate qualcosa da mangiare, perché no? Par da fame. No, perché poi era un grande blef, ma hai detto che c'era un buffet clamoroso. E te l'ho detto, c'era prima, sei arrivato in ritardo. Sei arrivato in ritardo. Grissini anche ben croccanti. C'è Marco. Attenzione, c'è un brano? A proposito di Grissini. Scusate, Torino. Torino non è soltanto un nome. Grande canzone questa, non so. Torino è un grande corpo. verso la Spagna, va bene. Questa è dedicata a Giulia, no? Questa canzone sta... No, Giulia è un'altra canzone. Giulia gli occhiali sul naso. Tra l'altro Giulia è una canzone anche più, più popolare, più... No? C'è qualcuno qua dentro che conosceva Torino di Venditti? Uno. Uno. Uno. Uno sulla Juve, tra l'altro. Uno su mille. Prima. Uno su mille. Attenzione, no. C'è Giulia. Prendi il microfono, attenzione. Giulia improvvisamente risorda. Dare il microfono a Giulia è un messaggio importante. Rinviene sulla fascia destra. Quella che sta per dare. Botta di vita. Dribbling secco. Dai, dai, vai, vai, Piantanida, Giulia, vai, attenzione. Vai, signor Piantanida. Al limite dell'area, Giulia. No, poi c'è Marco da Torino che ha detto di questa cosa, ha provato a ricostruire l'iconografia classica secondo cui il torinese è granata, dicendo che non è vero, e poi sparito. Clamoroso complotto nei confronti di Giulia. Le viene... c'è. Ecco Piantanida. Giulia c'è. No, dico, ha chiesto a chi, se c'era qualcuno che conosceva la canzone, uno solo, quindi sono giustificata. Beh, uno. Yeah. Uno però c'era. No, Torino, ma invece altri, Giulia la conoscevate tutti, vero? Quella sì, guarda. Ma Giulia, tu dici la canzone o la Giulia? La canzone, no, Giulia, lei, dai, adesso voglio dire, c'è anche dei limiti, No. Io e Getta ci siamo sposati quest'anno, ma pure tu. Io no, io non sono sposato. Non è sposato, piace il signor Tancredi. Ma non era quello il senso. Giulia, non era quello. Può interessare il signor Tancredi? Pardo, non era quello. Andiamo avanti. Dai, sembra Vincenzo, Davide. Sembra una bella faccina. Davide. Ecco, Davide la radio, c'è l'effetto. Oddio. C'è l'effetto Ericsson sulla luna. Allora, no, è Larson l'effetto, però. C'è, sì. Sì, c'è l'effetto Rise, no, però. Un'abduzione. Bisogna abbassare la radio. Dica. C'è l'effetto, okay. Nilsson, prego. Ok, signor Pardo. Dica. Allora, niente, io volevo chiedervi una cosa. Lo scorso anno la Fiorentina, sono tifoso della Fiorentina anch'io. Lo scorso anno la Viola ha fatto un ottimo girone di qualificazione in Europa League e poi si è trovata negli ottavi la Juventus, cioè una squadra che cade dalla Champions. Che ne pensate di questo voi? Cioè delle squadre che falliscono in Champions e vengono retrocesse in Europa League, rompendo le uova nel paniere a chi mai riparte ad agosto a fare i preliminari. Tutto qua. A me piace, anche a me piace perché impreziosisce il torneo, lo rende più competitivo. Da un po'. Fra l'altro quest'anno, ieri sera, prima di andare a dormire, ho dato un'occhiata alle qualificate. C'era una vita drammatica. Ma no, è durata un minuto. Però ho visto ho visto la classifica dei gruppi. Sta venendo fuori una. Pur io, devo dirti la verità, pur io. La situazione è grave. Sta venendo fuori una bella Europa League. A letto guardando le qualificate. È pieno di squadre belle. No, ho dato un'occhiata. 3 minuti. Devo dirti una cosa, sono passate tutte le favorite in Europa League, nessuno è rimasta fuori, mentre invece in Champions. Vabbè, scusate, adesso è il nostro momento, lo dedichiamo alla nostra Giulia. Con le vostre dediche 800 24 00 24. Con Radio Cuore 24. Dedica anche tu a Barisoni. Questa mi ricorda Frango e Stop, da Marco della Gela Passa Frenzi. Dedica a Barisoni un'ipotesi impennata in borsa. Giulia, gli occhiali sul naso, ti sfiora la mente. Siamo a livelli eccessivi. Vabbè. Mettiamo a piangere tutti i calzettini. C'è sentimento? Come solo lei sa. Giulia distratta. C'è sentimento, Pierpaolo? C'è sentimento? E la camera passa. E la mano piano piano che scende. Ma cosa allude, Venditti, con questo la mano piano piano che scende? Non lo so, io non sono così malizioso. È un po' come l'alba chiara di Vasco Rossi, eh? Forse al guardalinea che non chiama il fuorigioco e rimane giù con la bandierina. Vabbè, niente, oggi volevo parlare della Juventus, di Tevez Llorente, che è la coppia dei sogni in questo momento. Tra l'altro, grande affare, costati 15 milioni in due, tutti per Tevez. Ne ha parlato. Anzi, 9 più 3 più 2. Volevo parlare di Immobile, di Matteo, che insieme a Prandelli non stanno andando benissimo. Volevo parlare di Osvaldo e di... Abbiamo detto cose di prima. Vabbè, andiamo bene, abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto. È finita qui? Il programma di governo è stato assolto. Ci sentiamo domenica dalle 17 alle 19, ci sarà anche il signor Capuano, il sottoscritto Carlo Gento, Pierluigi Pardo, Tancredi Palmieri, magari anche lui è invitato quando vuole. Sono al Juventus Stadium, mi appoggio alla Juventus Stadium insieme a Pardo. Benissimo, io ringrazio il signor Agenti che ci invita tutte le volte. C'è un messaggio straordinario, che è questo: andate a fare tutti e tre, capito? Cioè, è straordinario. Giulia è stata risparmiata, Piantanida, anche la Ligios. Forse tutti e tre sono proprio Giulia, Piantanida e la Ligio. 14:30, si parte tra poco. Inizia la sfida. Ciao ragazzi, grazie. Ciao a tutti. ora, signor Kinsella, voglio farle io una domanda. Cosa c'è di così interessante in un mezzo inning da farla venire fin qui, dall'Iowa, per parlarne con me a distanza di 50 anni? Me lo può dire? Credo di aver fatto tutta questa strada per chiederle se lei ha un desiderio. Vede, io non riuscii mai a battere da professionista. Avrei voluto tanto farlo, almeno una volta. Guardare negli occhi il lanciatore. Guardarlo negli occhi quando sta per lanciare e ammiccare, per fargli credere chissà che cosa. Vorrei poter sbirciare un cielo così blu che ti fa male agli occhi guardarlo. Sentire il formicolio nel braccio quando colpisci. Cominciare a correre. Passare sulla prima, sulla seconda e poi piombare sulla terza. Abbracciare il cuscino della base. Ecco, questo è il mio desiderio. Il mio desiderio. Tutti convocati.